Siamo... No, tu sei più bravo a parlare. Siamo Valerio... Siamo Karel Vacek e Valerio Conti. Benvenuti a Geronimo. Amiche e amici del ciclismo, delle nuvole basse di quei giorni nei quali credi di aver visto tutto, benvenuti a una nuova puntata di Geronimo, il podcast di Al Vento dedicato al Giro d'Italia 2023 con le voci di Bidon, che sono la mia, Filippo Cauz, quella di fronte a me, Leonardo Piccione, ciao, e quello seduto alla mia destra, Michele Pelacci, che sbarbatissimo, sbarbato, tutto fresco, che si aspettava però che tu citassi le crisciolette. Gli amici delle crisciolette in questo intro. Ma gli amici, cioè, se uno ascolta questo podcast è amico delle crisciolette per forza, nel senso, lo do per scontato. Amici delle crisciolette, fateci assaggiare le crisciolette, portatecele in una cornucopia alla stanza 500 e qualcosa del 6, mi sa, 506, sì, del Mondial Resort di Marina di Pietrasanta. Di Marina di Pietrasanta, ragazzi, questa sera. Oggi di lusso, c'è anche la piscina qua fuori. Peccato che la giornata, come qualcuno di voi avrà potuto apprezzare seguendo il Giro d'Italia, non è stata delle più semplici. Beh, sta migliorando però adesso rispetto a quello che abbiamo visto oggi sulla strada. È quello che i corridori hanno trovato oggi sulla strada. È meno peggio, dai, diciamo così adesso. Si decisamente sta aprendo il cielo, forse. Anche molto meno peggio di quello che è successo in Romagna, per cui mandiamo un abbraccio e un saluto ai nostri ascoltatori romagnoli, che so che sono tanti. Abbiamo un grande gruppo di amici in Romagna e vi vogliamo sempre bene. Ad ogni modo, andiamo sulle strade del Giro, strade che si fanno un po' più spopolate, come possiamo dirlo. Insomma, la giornata di oggi è sommata alla giornata di riposo ha mietuto un bel po' di vittime. Ha mietuto, ecco, non esatto. Sapevo esattamente come dirlo. Quanti in tutto corridori? Ha mietuto. Allora, ci sono i corridori che non sono partiti, anzi, i corridori non sono partiti, come c'era scritto nella sovrimpressione. Risebeck, Uran, Kung, Bistrom, Taramae, Pozzovivo, Wurtz-Schmidt, Evenepoel e Scotson, ai quali vanno aggiunti i corridori non sono finiti, Vlasov, Vetter, Petilli, Tusveld. Non sono finiti, comunque ce ne sono ancora 150 in corsa, l'ultimo classificato oggi Michael Hepburn. Però 13 sono, non sono più della partita, e non so se è un record, sono tantissimi, più di una squadra e mezza. Beh, sicuramente è un record per una giornata senza cadute significative. Insomma, sono successe altre volte dei ritiri in massa provocati però dal contatto con l'asfalto. In questo caso il contatto è stato il famoso, come si chiamava, quello spruzzo della saliva. Noi ci eravamo dimenticati del Covid, adesso dobbiamo anche ristudiare tutto quanto abbiamo ritirato fuori le mascherine. Una terminologia che avevamo messo da parte. Sì, sì. Vabbè. Ho capito cosa intendi, ma non mi hai viene capito la cosa parola. Intendi? Sì, lo è stata con noi per tutti. 3 anni. Va bene. Io, allora, mentre mi disinfetto le mani con la mucchina, passo il microfono a Michele Pelacci perché ci riassuma la tappa. Beh, perché un po' di cose sono successe anche in questa tappa. Condizioni che Thomas Champion ha definito dantesque. Poi Thomas Champion non è un nome detto lì a caso, però Michele, raccontaci come è andata questa giornata dantesca secondo Champion. Sì, perché è arrivata la fuga a Viareggio, ma una fuga che non è andata via subito, ci ha messo una trentina di chilometri per prendere il largo a De Marchi, l'abbiamo così nominato spesso, e Davide Bais si aggiunge in un secondo momento Magnus Cort. Freddissimo, ventissimo, pioggissima sul passo delle radici, questo è un po' riassunto. Rimangono solo De Marchi, G e Cort ad arrivare appunto soli sul traguardo di Viareggio. Qui De Marchi lancia una volata con la progressione, ma Cort vince facile. Sì, Cort ha vinto facile, G ha lanciato la volata presto o troppo presto rispetto a quanto avrebbe dovuto. Cort De ha Marchi davvero ancora di più. De Marchi ancora di più, De Marchi è stato l'anima ancora una volta. Posso di questa dirla, fuga. Tanto la diranno tutti. De Marchi è partito lungo ma è arrivato Cort. Sì. Sì, ancora una volta è stato lui l'anima e il motore di questa fuga. È in uno stato di forma, secondo me, straordinario Alessandro De Marchi in questo giro. Ha voluto di forza portare via questa fuga. E poi gli uomini davanti. G, grande sorpresa di questo giro. Cort, quando va in fuga, è sempre, o quasi sempre, poi quello che riesce a portare a casa il malloppo, perché ha questo vantaggio di essere velocissimo allo sprint. E quindi sono riusciti ad arrivare. La fuga è arrivata, rispetto al contrario di quello che era successo a Napoli, quando il controllo poi alla fine tra De Marchi e Clark aveva fatto sì che il gruppo recuperasse. Oggi il gruppo è stato messo nel sacco, come si dice, e ha vinto, da logica, il corridore più veloce. Sì, aggiungo solo che Guy e De Marchi, avevi detto bene nel riassunto e ora ci sei ricascato. Non ce la posso fare. Derek G. Sono incorreggibile. G e De Marchi mi sembrano di gran lunga tra i cacciatori di tappe quelli con più gamba. E sarebbe bello che da qui a fine del giro riuscissero a portarne una a casa. Abbiamo visto una bella fuga di nuovo, una fuga arrivare, che insomma ne parlavamo, no? Di quanto poche ne stanno arrivando. Stavolta è arrivata, evviva, anche un gran bel vincitore di tappa, per cui insomma, nonostante la pioggia, è stata una bella giornata. Cos'è, un'intervista? Nonostante la pioggia, è stata una bella giornata, è stata molto bella per Cort, forse un po' meno bella, cioè bella sicuramente, ma con un finale un po' più amaro per i due compagni di fuga. Per i due compagni di fuga che abbiamo incontrato all'arrivo. Abbiamo incontrato all'arrivo perché erano lì, perché sono... cioè, l'anomalia era che noi fossimo lì, loro inevitabilmente. Di solito i corridori... Beh, transitano di oltre solito, tranne 13 oggi, tranne per cui 13 oggi che non l'hanno percentuale... vista. Abbiamo parlato ovviamente con Alessandro De Marchi e ascoltiamo cosa ci ha detto dopo l'arrivo. Che si può fare più di così? Ah, ditemelo voi. Io onestamente non lo so. Non lo so, boh. Però adesso sono incazzato, domani mattina sarò sicuro soddisfatto, dai. Sei incazzato con te stesso o con no, il destino, la sorte? Boh, chiamalo come vuoi, non lo so, col fatto che arrivo sempre con qualcuno di estremamente veloce, con un arrivo che è difficile, insomma, che difficilmente ti offre opportunità per inventarti qualcosa, quando hai 3 chilometri dritti così e due ragazzi più veloci, più forti, è inevitabile, quindi siamo qua, beh. Ti conosciamo ormai da tanto, però a me sorprende sempre come fai a trovare la voglia in un giorno del ma genere. In realtà è forse la cosa più difficile questa, mentalmente riuscire ogni volta a programmarti, a dire questa è la tappa, questo è il momento, questo è il chilometro e poi stare lì concentrato, questa è la cosa davvero più anche fastidiosa, forse più stancante, questo dover mantenere la concentrazione alta e poi sapere che io, insomma, se io riesco a vincere una tappa la vinco dopo 5 ore di stenti. Soltanto una cosa, spero ti faccia piacere, un ringraziamento da parte di chi guarda le gare. Oggi sapevamo, oggi è una tappa per De Marchi e De Marchi era in fuga. Cioè questo non so se ti fa piacere sapere che la gente ti aspetta e tu rispondi sempre presente. No, ma come ho detto prima, è una cosa di cui sono fiero, nel senso che... Devi essere. Che non è così, cioè innanzitutto non è così semplice riuscire a dichiarare e poi mantenere, perché ci sono 160 scalmanati con te. Quindi di questo sono molto fiero e molto contento. Adesso diciamo che sono di nuovo nella fase in cui vorrei chiudere un po' il cerchio invece di continuare a tentare. Ok, oggi insomma un terzo posto non è male, però insomma. Rispetto all'altra volta oggi abbiamo fatto un passo in avanti. Esatto. Abbiamo fatto un passo in avanti. Grazie Alessandro. E per fortuna con De Marchi si riesce sempre a concludere con una nota divertente e simpatica, nonostante ecco la durezza di questo finale, ancora una volta per lui. Ci sta un po' spezzando il cuore questo giro per quanto riguarda le fughe e gli arrivi delle fughe. Ha ragione, c'è bisogno di qualche arrivo in cui non ci siano 3 chilometri pianeggianti alla fine che favoriscono i corridori. Però quello c'era oggi, cioè adesso non è che tutto è anche il giro a Napoli. Che... E anche a Napoli era così. C'erano 3 chilometri, dai, adesso... C'era sto rettilineo che un po' tagliava. C'era il mare, quello sì. Cioè, va detto che i due arrivi erano accomunati dal mare. Quindi consigli basta mare per questo Giro d'Italia? Ma io sei anni che propongo al Giro d'Italia di fare solo tappe sul mare in giornate di sole, senza trasferimenti e potendo stare in spiaggia mezza giornata al giorno. Non c'era sole oggi? Non l'hai visto oggi? Non l'ho visto, no. Non abbiamo visto il sole, abbiamo visto all'arrivo Derek G, che De Marchi ha detto era colui con le gambe migliori oggi, e se si fosse giocato meglio la volata, quindi lasciando l'iniziativa finale a Court, avrebbe vinto lui. Però sentiamo se era della stessa opinione il diretto interessato Derek G della Israel Premier Tech. E quindi sì, dà ragione a De Marchi. Scusateci, ma dovevamo farlo prima. Peccato, lo sento un po' stanco. Beh, a fine tappa, effettivamente. Un po' di fiatone. Comunque squillante, nonostante tutto. Io ero contro questa cosa, questo umorismo, veramente. Sono contro. Però... Ma che umorismo? cioè il junk occhi scuri sull'ordine del rivo. Io apprezzo invece un sacco, perché anni fa, quando io intervistai un fenicottero facendo una cosa di questo tipo, Piccione volle dissociarsi. E quindi pian piano lo stiamo portando alla nostra parte. Anzi, no, non è vero. Ho fatto il mio dovere, ero lì e ho fermato. Era un'intervista vera, non era una gag, per cui andiamo a riepilogare l'ordine d'arrivo. L'abbiamo già detto, no, non l'abbiamo detto. Non abbiamo detto l'ordine d'arrivo, un sacco di cose ne abbiamo parlato, ma non l'abbiamo detto. Ha vinto Magnus Court su Derek G e Alessandro De Marchi. A 51 secondi è arrivato il gruppo, quel che restava del gruppo, una quarantina di corridori, regolato da Mads Pedersen. Quinto Pascal Ackermann, a seguire Stefan Oldani, pronosticato da qualcuno, è arrivato sesto. Settimo Johnny Milan, ottavo Cavendish. Io non avrei mai detto Cavendish ottavo in una tappa di questo tipo, ma abbiamo visto anche questo. Nono Mirko Maestri e decimo Filippo Fiorelli, poi a seguire tutti gli altri componenti del gruppo Maglia Rosa, tranne Jay Vine della UAE, che ha perso più di 11 minuti, è caduto, ha avuto tutta una serie di poi altre difficoltà ed è uscito forse definitivamente dalla classifica generale, non dal giro, è ancora in corsa e speriamo sia protagonista. Ma torniamo al vincitore di tappa. Tra l'altro vorrei poi proporgli di cambiare nome, non so se questo è il momento giusto nella scaletta. Per chi? Per Jay Vine. Non sarebbe molto meglio se fosse JJ Vine? Sì. Non suonerebbe molto meglio? Sì. Bisogna andare a dirglielo. Poi è un famoso, no? Omonimo trequartista nigeriano. JJ Okocha. Esatto. Bellissimo precedente, no? Anche JJ Watt. Ci sono un sacco di JJ, vabbè, scusate, è un po' di giorni che avevo questo dubbio, questo tarlo nella testa. Va bene, parliamo un po' del vincitore di tappa, perché noi ovviamente siamo legati per diversi motivi a De Marchi e da qualche giorno anche a Derek G, però Magnus Court è un gran corridore, è anche molto simpatico, ha un baffo che ispira tante persone nel mondo, tra cui Simone Consonni, che avevamo parlato ieri. Abbiamo parlato ieri con uno dei due baffuti del giro. Non sono solo due, anche Almeida il baffo a questo giro. Però sì, ecco, oggi ha vinto. Forse anche qualcun altro adesso. Forse anche qualcun altro. Però tra i baffuti del gruppo oggi ha vinto il rappresentante più, come dire, splendente. Beh, qui mi permetto nuovamente di dissociarmi. Perché? Cioè, comunque io continuo a preferire Grosschartner tra i baffi. Di questo giro d'Italia. Magnus Court, che ha completato anche lui, come era successo a Pedersen qualche giorno fa, vittoria in carriera al Tour, alla Vuelta e da oggi anche al Giro d'Italia. Magnus Court Nielsen. Entrambi danesi a fare questa tripletta, ne mancano quattro. Sono Kuss, Barguil, Mollema e Clark. Ha detto una cosa interessante, una statistica che veramente deve aver ricercato e se la teneva in testa qualche giorno, si vede. Court ha detto che il Giro è stato l'unico Grand Tour in cui non ha vinto una tappa al primo tentativo. E sono andato a verificarla sta cosa. Veramente ha vinto una tappa alla prima Vuelta che ha partecipato, cioè nel 2016, e al primo Tour de France che ha partecipato, cioè nel 2018? Sì, è vero. Quindi Court dice le cose giuste. Ha detto per esempio che, ha fatto ridere quando era un po' a bagnomaria, no? In mezzo tra gruppo e fuggitivi. Non sapeva il distacco né davanti né dietro, e si è messo a urlare l'ardiolina. Oh, ditemi quando, proprio così diceva. No, non ha detto a Oda Magnus Court, non l'ho sentito pronunciare. In Danimarca non si dice. Non credo che si dica. Però sì, bel vincitore di tappa, Leo. Sì, bel vincitore di tappa, simpatico, abbiamo detto, sorridente, ovviamente avendo vinto una tappa. Gli ho chiesto, siccome, come hai detto poco fa, lui si è unito alla fuga più avanti, non era all'inizio tra gli attaccanti, se ha deciso di unirsi alla fuga dopo che ha sentito che c'era De Marchi davanti, perché magari è un incentivo sapere che c'è uno generoso come De Marchi davanti. Lui ha detto: no, non sapevo assolutamente nulla di chi ci fosse davanti, anzi a un certo punto non sapevo nemmeno di essere davanti, solo che il programma, l'obiettivo della giornata era di andare in fuga, e quindi io a un certo punto mi sono mosso, c'erano corridori dappertutto e mi sono ritrovato davanti a tutti in fuga. E poi l'altra cosa interessante che secondo me ha detto è sulla programmazione, no? Su come gestire l'energia in una giornata del genere, dopo che lui ha dovuto lavorare per rientrare sulla fuga. Perché come hai fatto a mantenere delle energie poi per la volata finale? E lui ha detto che in realtà non è che abbia fatto sta grande gestione, programmazione, semplicemente ha detto the body kept working somehow, il corpo ha continuato a funzionare per qualche motivo. Ha detto: a un certo punto ero preoccupato che potesse smettere di funzionare il suo corpo, sempre il soggetto della frase, eravamo al limite, i watt non erano quelli che desideravo a quel punto, però in qualche modo ce l'ho fatta e poi la volata l'abbiamo vista, non c'è stata storia. Abbiamo parlato anche in conferenza stampa, c'eravamo io e te nel track insieme a altri colleghi, con Kurt e con Geraint Thomas. Eh sì, certo, perché alla Maglia Rosa tocca, come forse sapete, venire a incontrarci ogni giorno in conferenza stampa. Gerasimo Tommaso, mi raccomando, basta con questi inglesismi. Sì, esatto. Accettiamo Geronzio e Calogero, ma nulla più. E che è... quindi, come, scusami, aiutami a ricordare... Gerasimo Tommaso. È la nuova Maglia Rosa e vi leggo la classifica generale, perché poi con i ritiri e i non partiti sono cambiate alcune cose. Geraint Thomas, scusate se lo dico in inglese, è la Maglia Rosa con 2 secondi di vantaggio su Roglic e 5 su Theo Gegenhardt. Questo è il podio. Al quarto posto c'è João Almeida con 22 secondi dalla Maglia Rosa. Quinto è Andreas Leknessund, che ha perso qualcosina oggi, alcuni secondi, ed è a 35 adesso dalla Maglia Rosa. A seguire sesto Damiano Caruso, settimo Lennart Kemna, ottavo Pavel Sivakov, nono, attenzione, entra nella top 10 Eddie Dunbar, che pian piano sta risalendo posizioni, l'uomo di classifica della Jayco, la squadra sempre di De Marchi, adesso è nono, e decimo c'è Timen Arensman, sempre con lo stesso ritardo di Dunbar, cioè 2 minuti e 32 dalla Maglia Rosa. Sulla classifica generale abbiamo detto già che Jay Vine è un po' ha perso delle posizioni, c'è stato un movimento a un certo punto nella tappa di un uomo di classifica, Damiano Caruso, che nella discesa dal passo delle radici, colle delle radici, aiutatemi, passo delle radici, ha allungato insieme ad alcuni suoi compagni di squadra, nello specifico Jonathan Milan e Andrea Pasqualon, insieme a loro poi si è aggiunto anche Rota e Sivakov. Sivakov poi è caduto e si è defilato da questo gruppetto, hanno attaccato in discesa, hanno guadagnato fino a più di un minuto di vantaggio sul gruppo Maglia Rosa. Non è ben chiaro ancora al momento il motivo di questo attacco. Caruso ha detto perché volevano stare avanti ed evitare pericoli, però forse c'era anche l'obiettivo di portare Milan più avanti e fare in modo che Milan prendesse l'ultimo Gran Premio della Montagna con un vantaggio sul gruppo dei migliori, che nel frattempo era costretto, data la presenza di Caruso, ad aumentare il ritmo. Molti velocisti si sono staccati e quindi Milan in questo modo, secondo i piani della Bahrain, si sarebbe trovato a giocare lo sprint con meno avversari, con meno velocisti. Il problema è che poi il gruppo, ridotto anche a causa dell'azione della Bahrain a 40 corridori, non è riuscito a chiudere sulla fuga. Quindi alla fine questa azione in cui si è esposto uno degli uomini di classifica, Caruso, non è che abbia portato a grandi risultati. Però personalmente devo dire che questa creatività tattica, questo grande casino che va creandosi... Creatività tattica. Io sono sempre un fan del caos organizzato, ammesso che fosse organizzato questo attacco della Bahrain di oggi, che non ha portato a nulla alla fine poi, Ha portato qualcosa, poi l'esito della volata, perché si è ristretta ancora la classifica per la maglia Ciclamino, per cui Pedersen è ancora più vicino a Milan. Una cosa da vedere, no? Questa seconda settimana in cui tante tappe sono imperscrutabili alla partenza. Sono imperscrutabili? Sì. Domani, per esempio, ne parleremo dopo. Però è vero, è un bel aggettivo, imperscrutabili. Sai chi non abbiamo visto oggi nella sua maglia reale? Evenepoel? No. Indurain? Neanche Geraint Thomas, perché la maglia rosa era coperta dall'impermeabilino nero della Ineos, no? Per cui vediamo domani. Anche lui a un certo punto ha avuto qualche tipo di problema, no? È rimasto attardato. Sì, poco prima del passo delle radici. Prima delle radici. È rientrato da solo. Ma tutto bene, Grant Thomas era contento all'arrivo. No, per le condizioni che c'erano oggi sulla strada è andata bene la giornata, mi sembra di poter dire, un po' per tutti tranne che per Vine. Ma parlando di Thomas, non aveva la maglia rosa in corsa, ce l'aveva quando è venuto in conferenza stampa, era ben vestito in rosa per la prima volta e ci abbiamo... Gli stava bene. Ha scelto bene i colori oggi. Sì, no, gli stava bene e... La prima cosa che gli ho chiesto riguardava il meteo. Gli ho detto: che tempo fa, Gerasimo? Domani, previsioni per domani, Gerasimo. Gli ho chiesto se per lui, che è gallese, è un vantaggio avere un giro in cui piove un giorno sì e l'altro pure. E lui ha detto sì, ma fino a un certo punto, perché se me ne sono andato dal Galles ci sarà un motivo. E il motivo è che il meteo avverso non è che gli piaccia tanto, però insomma si trova comunque più a suo agio di altri corridori nel brutto tempo. E poi ci ha detto una cosa interessante sul rapporto con Roglic, se non sbaglio gliel'hai chiesto proprio tu, Michele. Sì, perché l'ho visto, abbiamo visto anche diversi di noi, no, in diverse giornate di questo Giro d'Italia, scherzare con Roglic, fare una battuta e in generale prendersela molto poco sul serio loro due, quindi gli ho chiesto se hanno un senso dell'humor, quindi dello scherzo, della risata, simile, se insomma gli piace condividere il tempo e lo spazio con Roglic, e mi ha detto sì, è vero, viviamo vicino a Monaco, i nostri figli giocano assieme, abbiamo molto rispetto uno per l'altro e forse in effetti anche il nostro senso dell'umorismo è simile, ma quando si tratta di corsa siamo professionisti uno contro l'altro, la guerra è guerra, come si dice. E l'ultima cosa che vorrei dire su Thomas riguarda qualcosa di non scontato che ci ha detto, perché da questa sera la Ineos ha 5 uomini, dei 7 che sono rimasti in gara nella loro squadra dopo il ritiro di Ganna, nei primi 11, cioè 5 su 11, quasi la metà dei primi 11 classificati nella classifica generale sono corridori della Ineos. Gli ho chiesto se secondo lui esiste uno scenario in cui l'essere in tanti, così tanti, davanti può diventare un problema anziché un vantaggio. E lui non ha detto no, assolutamente, meglio essere tutti lì che al contrario. Ha detto maybe, ha detto forse potrebbe anche diventare un problema se emergesse l'ego in qualcuno di noi, se qualcuno di noi facesse emergere la propria il proprio ego, la propria, come si dice, il proprio egoismo. Ubris, egoismo, in qualche modo, che non è una risposta scontata secondo me, e comunque alla fine ha detto ci sono evidentemente più aspetti positivi che negativi nell'essere in così tanti della stessa squadra là davanti, e come dargli torto. Vabbè, basta, abbiamo parlato fin troppo, dai. Secondo me questo podcast sta diventando di una verbosità eccessiva. Rivolgiamoci a chi ha parole ben più preziose delle nostre. Al nostro consueto angolo del libro. Oggi siamo in compagnia di Frank Bono, che ci parlerà del suo nuovo libro Giro, Tour, Vuelta, i tre fratelli. Ben trovato, Frank. Salve a tutti. Ci parli del suo nuovo libro? Il libro parla del rapporto burrascoso tra tre fratelli, Giro, Tour e Vuelta, che portano avanti un rapporto difficile, ma anche pieno d'amore e anche rispetto reciproco, ma difficile. Si tratta di una metafora, una lettura psicanalitica sulla difficile relazione che intercorre tra i tre. Molto interessante, ma può raccontarci meglio in che modo la psicanalisi entra a far parte del suo libro? No, che non posso, mica sono uno psicanalista. Ma certo, lei è un bravissimo scrittore. Questo lo lascio dire agli altri, ma se mi dovessi esprimere lo farei certamente in mio favore. Vuole darci una piccolissima anticipazione sulla storia? Posso solo dire che sono tre fratelli e che il momento topico del libro è quando si organizza la cena di Capodanno. Il Giro porta la lasagna, il Tour porta il camembert, la Vuelta porta il burrito. I burritos? Ma mi risulta essere un cibo messicano. Ma che ne sono io? Mica sono un geografo. Allora non ci resta che darvi appuntamento in libreria con Giro, Tour, Vuelta, i tre fratelli di Frank Bono. Al prossimo libro! tensione, ragazzi. Cioè, io voglio sapere come va a finire quella cena di Capodanno. Tra giro, tour e vuelta. Ma poi non ho capito se è un libro che parla di ciclismo o se i tre personaggi di questo libro si chiamano giro, tour e vuelta. Ho il dubbio che non parli di ciclismo, però va bene, lo lasciamo. Non so se è inserito nel nostro podcast che parla quasi esclusivamente di ciclismo, ci sarà una ragione. Diciamo così. Va bene, parliamo forse invece di ciclismo adesso, perché l'abbiamo fatto stamattina con due corridori. Uno featuring un altro. Stiamo parlando dei due che avete ascoltato in apertura di puntata, quindi Karel Vacek featuring Valerio Conti. Valerio Conti, li avrete visti entrambi protagonisti a loro modo della tappa del Gran Sasso. Valerio Conti era a bordo strada perché, sapete, si è infortunato e si è ritirato dal giro, sta utilizzando una stampella in questo momento, ed era a bordo strada in salita a incitare Karel Vacek, che era in fuga in quel momento. Abbiamo parlato con Vacek perché per lui quella tappa, quel secondo posto, perché poi non ha nemmeno vinto quel giorno Vacek, il giorno che vinse Davide Weiss, esatto, quella tappa, ha detto, ha rappresentato una salvezza, e abbiamo parlato con lui di questo e di altre cose. Ciao Karel, come stai? Sì, tutto bene, sto bene, ho recuperato bene ieri, quindi... Hai recuperato fisicamente, invece con le emozioni hai recuperato o sei ancora un po', come dire, preso da quello che è successo al Gran Sasso? In pratica per emozioni qua c'è poco tempo, quindi io ancora sinceramente non ho goduto 100% il momento di quello che è successo all'altra tappa, perché... Come ho già detto c'è pochissimo tempo qua per veramente staccare. Sto cercando di rimanere concentrato per le prossime tappe, e quando finirà il giro poi sicuramente mi tornerà tutto, però per ora voglio rimanere focussato e concentrato per i prossimi giorni, per non fare sbagli e per portare il culo a Roma, e magari di provare ancora qualche attacco da lontano per ancora riconfermare di quello che ho fatto su a Campo Imperatore. Senti, sulla foto di Instagram che hai pubblicato di Campo Imperatore è scritto "This saved my life". In che senso quella tappa, quella corsa ha salvato la tua vita? Sì, ha salvato la mia vita, soprattutto la vita ciclistica, la vita che io voglio vivere, la vita che io voglio fare. Mi ha salvato quella tappa, perché era da tanti anni che... Facendo tutti i sacrifici e non sono riuscito, per vari motivi soprattutto mentali, a ritornare al mio livello di cui ero da junior, e in pratica ci ho sempre creduto, sempre ho fatto tutto quello che dovevo, ho seguito tutti i piani sempre, però sempre non riuscivo a fare questo passo che finalmente poi a Campo Imperatore sono riuscito a fare, anche se non ho vinto. Ho vinto la mia vita che voglio fare, la vita del corridore, ciò che amo e ciò che voglio fare ancora per i prossimi anni. Tu hai detto che hai pensato anche di lasciare il ciclismo negli ultimi mesi. Chi ti è stato vicino o cosa ti ha aiutato ad andare avanti, a insistere? Allora, sicuramente avevo tanti pensieri di smettere col ciclismo, perché l'uomo non, o io da solo non volevo essere cieco, perché vedendo che non andavo avanti, cioè non facevo fatica a trovare una squadra, ho detto piuttosto faccio qualcos'altro in cui posso essere bravo, dare il 100%, piuttosto di fare qualcosa al 100% e non riuscire a ottenere i risultati. Cosa avevi pensato di fare come alternativa? Questo era il problema. Io non mi è venuto in mente niente come alternativa, e quindi io ho detto, a quel punto, quando mi viene in mente un'alternativa, è il punto di smettere col ciclismo. Ma pensandoci, non mi è venuta un'alternativa, quindi ho continuato a fare il ciclismo. Ma devo dire che davvero mi ha spinto per non smettere, per continuare a fare tutti questi sacrifici, è stata mia ragazza, perché senza di lei, posso dire, al 95% oggi non sarei più stato qua e avrei fatto qualcosa di altro, però... Lei mi ha, in pratica, non mi ha fatto pensare a smettere, di non continuare, e quindi grazie a lei. Come si chiama? Anetska. E quindi anche per i suoi sacrifici devo dire che sono ancora qua. Un'ultima cosa su Remco volevo chiederti, perché tu l'hai battuto più di una volta, giusto, da junior? Sì. Hai avuto modo di parlare con lui nei giorni scorsi, adesso lui ovviamente si è ritirato. Sì, sì. Ho parlato con lui nella tappa dopo della tappa dove sono arrivato secondo su a Campo Imperatore. Mi aveva fatto i complimenti, c'ero anche in vicinanza con Jan Hirt, che conosco anche lui da tanto tempo. E mi ha fatto i complimenti, abbiamo parlato un po' e io gli avevo augurato di fare il meglio in questo giro, perché ci ho rispettato molto la sua preparazione, il modo in cui fa le cose, perché siamo cambiati tutti e due a tempi da junior, eravamo tanto rivali, ma lui è arrivato prestissimo al ciclismo, quindi mentalmente non era secondo me ancora pronto per fare alcune cose, e quindi eravamo un po' tanto rivali, diciamo, però sempre abbiamo avuto il rispetto uno per l'altro, anche se eravamo rivali. E quindi io gli ho detto che volevo che lui fasse bene in questo giro, perché se la meritava, perché tutti questi sacrifici che ha fatto, anche con dei periodi difficili che ha avuto, quindi sento con lui, e adesso mi dispiace davvero tanto onestamente per lui che ha dovuto andare a casa, perché se uno fa così tanti sacrifici so benissimo come si sente, quindi mi dispiace. Quanto è importante questo signore nella vostra squadra? Questo signore qua è la cosa più importante, non ho mai visto un corridore così, un uomo Valerio, così Valerio. Che ha fatto davvero vedere come, sì, sì, certo. Come gran uomo lui è, perché mi ha aiutato tantissimo anche in quella tappa su Campo visto. Imperatore. Se fosse lui non lo so, però mi ha dato tantissima fiducia, tantissima forza per tenere duro e per essere concentrato a quella tappa. Quanto è forte Karel, Valerio? È forte, solo che passiamo nei momenti nella vita che ci dimentichiamo di esserlo e servono delle persone che riaccendono questo fuoco che abbiamo noi dentro. Tu con questa stampella sei riuscito a farlo? Si vede, il destino doveva essere questo. Io un po' mi sto divertendo qua, quindi da paura. Ma tu dovevi tornare a casa ieri, invece sei rimasto perché la tua presenza è fondamentale con questi ragazzi. Sì. Poi mi diverto, a casa che fa un posto, finché non posso fare niente rimango qua. C'era un clima pessimo dal punto di vista meteorologico alla partenza, addirittura non si capiva bene nemmeno se ci fossero stati possibili scenari di neutralizzazioni, tagli, scioperi e chissà che. Ovviamente nulla di tutto questo è avvenuto, anzi Vegni ha ringraziato i corridori per la collaborazione. Un clima pessimo, e ciò nonostante Karel Vacek sarebbe rimasto con noi, penso 25 minuti a parlare, era veramente sai che mi ha colpito tanto di lui? I suoi occhi, aveva una serenità e una freschezza negli occhi nonostante il clima appunto di quel momento, però davvero questa sua prestazione, questo ritorno all'essere competitivo l'ha cambiato, l'ha trasformato. A me hanno colpito due cose che ha detto in questa intervista. Uno, il termine focussato, che d'ora in poi voglio imparare a utilizzare anch'io. E poi, che mi ha un po' stupito mentre l'ha detto, perché pensavo si aprissero scenari rivoluzionari, quando ha detto non volevo essere cieco. Che, detto da un cieco, effettivamente era abbastanza bizzarra come cosa. Ne parleremo con Zeman nella prossima puntata. Tutto questo è avvenuto questa mattina a Scandiano. Scandiano, che è una città che ha un sacco di particolarità, molte più di quelle che immaginiamo, perché abbiamo detto che è la città natale di Eugen Zuppa, non abbiamo detto, ma lo diciamo, che è la città che ha ospitato il Super Bowl italiano per 4 anni di fila, che è una cosa insomma rara che una finale di un campionato si vada a giocare in un comune così piccolo, e soprattutto la città di Matteo Maria Boiardo, poeta, la cui opera più celebre è L'Orlando innamorato. E non potevamo a questo punto non coinvolgere il nostro amico, fratello e compagno di squadra Gino Cervi per... Fratello come Giro Tour e Vuelta, con lo stesso rapporto. Esattamente. Sì, più o meno. Siamo in tre, non so, Gino. Gino Tour e Vuelta. Esatto. Esattamente. E quindi vi raccontiamo la nostra giornata con un montaggio audio che adesso vi facciamo ascoltare, che si apre proprio con la voce barricata di Gino Cervi, che ci ha scritto, ci ha voluto recitare la prima ottava dell'Orlando Innamorato, e ci ha detto che il motivo era che promette di raccontare cose mirabolanti come Gironimo, sicuramente voleva dire come il giro. In ogni caso, partiamo. Signori cavalier che vi adunati per odir cose dilettose e nove, state attenti e quieti e ascoltati la bella istoria che il mio canto muove, e vederete i gesti smisurati, l'alta fatica e le mirabil prove che fece il franco Orlando per amore al tempo di recarlo imperatore. No, è un podcast. Ah, ok. Fai un po' di pubblicità. Sì, come si chiama questo posto? Bar il Chiosco. Bar il Chiosco di Sciambiano. Scandiano, Parco della Resistenza. Volentieri, grazie, ciao. Sta diluviando stamattina, andiamo a cercare i corridori e i bus, se usciranno e avranno voglia di parlare, vediamo un po'. Adesso piove un po' meno, sto passeggiando per Scandiano cercando la pista ciclabile, perché pare che un muro di cemento lungo la pista ha ispirato una delle canzoni nel nuovo album di Vinicio Capossela. Vinicio Capossela ha vissuto a Scandiano, lui è nato in Germania, i genitori sono dell'Irpinia, però ha vissuto molti anni a Scandiano, ha cominciato a comporre musica, a suonare qui, poi è proprio in Emilia Romagna che è stato poi notato da Francesco Guccini. È una delle canzoni del suo nuovo album, che si chiama 13 canzoni urgenti, si chiama Staffetta in bicicletta, ed è stata ispirata da questa scritta sul muro della pista ciclabile di Scandiano. C'è scritto omaggio alle staffette partigiane, e ci sono una trentina di nomi di donna che lui ha utilizzato nel testo di questa bellissima canzone, che si chiama appunto Staffetta in bicicletta, e che a un certo punto dice così: come il vento di primavera non si ingabbia nella rete, come i vostri capelli, come i sorrisi, come l'aria quando corre in bicicletta, questa è la libertà, azione e responsabilità. E quindi sto cercando di vedere se trovo il luogo che ha ispirato questa bella canzone di Vinicio Capossela, che se avete modo vi consiglio di ascoltare. E allora, siamo per strada sul percorso di gara, abbiamo appena superato un posto che si chiama Felina. Michele è tornato con noi e ci guida, perché sono un po' anche le sue strade. E adesso, dopo Felina, ci sarà il passaggio in località Gatta, è vero? Sì, la Gatta, dove ha il campo una nota località, una nota squadra dell'Appennino Reggiano, e più volte sono venuto a giocare alla Gatta a pallone, per cui... E come si chiama questa nota squadra dell'Appennino Reggiano? Avevo un nome di quelli compositi, perché riuniva diverse, appunto, località e... Vabbè, però così nota non è, se non ti ricordi il nome. Hai ragione, ecco. Forse dovrai un attimo. Si chiama tipo Audax Appennino, una roba così. Addirittura, vabbè. Sì. Vorrei anche far presente che con questo clima la Gatta non si muove. Comunque, Felina, Gatta, tempo da lupi. Io mi chiamo Piccione. Vabbè, intanto abbiamo ricevuto un messaggio, se non sbaglio, da Egert Zupa in questo momento. Sì. Che è a Scandiano, mentre noi non siamo più a Scandiano, ce l'ha mandato e ve lo facciamo ascoltare. Scandiamo questo messaggio. Ascoltiamolo, dai. Allora, che dire? Per me all'inizio ho cercato di portare mio figlio di 2 anni a vedere la tappa, ma troppo birichino, e dovevo stare dietro a lui e mi sono goduto non tanto la tappa, però all'inizio, quando l'ho portato al villaggio, per me è stato traumatico non essere presente a quello che sognavo, poter partire da mia Scandiano a una tappa del giro. Però dai, ero ugualmente contento, di un giro d'Italia a Scandiano era il mio sogno. Da una parte è stato bello, però dall'altra tanti ricordi, tanta nostalgia, diciamo, e vedere tutta la gente appassionata in mezzo alla strada nonostante la pioggia è stato fantastico. Poi ho salutato tanti miei vecchi compagni di squadra, amici che sono al giro, il mio vecchio allenatore Parsani, che a momenti mi fa piangere perché ha detto delle parole fantastiche su di me, quindi mi è nostalgia, c'è poco da dire. Però vedere il mio vecchio fan club che è fatto su fuochi d'artificio, fumogeni, è stato bello, veramente bello. Spero di aver trasmesso un po' di passione anche a mio figlio, ma mio figlio era più concentrato a fare le pozzanghere che a vedere i corridori e voleva i fumogeni in mano, sai, per i bimbi un'esperienza unica. Vederla dietro alle quinte trasmette un'altra passione, però è sempre il Giro d'Italia, un'esperienza unica in tutti i sensi. Questo siamo arrivati in cima al passo delle radici, non si vede nulla, è tutto chiuso, ci sono 5 gradi, ci siamo dimenticati nell'intervento faunistico di prima di dire che fa un freddo cane gatto, direi, sì, esatto, un freddo gatto, non so, cane sicuramente. È una giornata in cui potrei pensare di fare molte cose, andare in bicicletta forse è l'ultima della lista, la toglierei proprio dalla lista. Ah, forse per me in una giornata del genere toglierei dalla lista tutto ciò che non si svolge sul divano o sotto il piumone. È vero che lo faccio per buona parte delle giornate, per cui forse non faccio testo. Comunque noi non metteremo radici qui sul passo delle radici, ma è pieno di camper, sono tutti chiusi dentro. Potremmo andare a intervistarli, ma non ho la benché minima intenzione di uscire dal furgone. Bellissimo, bellissimo Appennino, la salita è lunga. Bellissimo adesso, non si vede assolutamente nulla qua su. Vi garantisco che è bello quando c'è bello qua. Mi viene da dire quasi peccato, perché per esempio quando scendiamo adesso, breve, incontriamo Castiglione Garfagnana, da cui si prende per esempio il passo del vestito. Insomma, c'erano modi per rendere la tappa più dura. Oggi un percorso più duro avrebbe fatto molti danni in classifica generale. Magari li farà lo stesso. Magari li farà lo stesso, speriamo che il tempo scendendo migliori un po'. Una cosa che non si può fare quando si è a letto sotto le coperte è i propri bisogni, cioè si possono anche fare, però sì, meglio di no. Quindi io adesso esco dall'auto perché ho bisogno, prima di ripartire, di liberarmi. E poi il passo del vestito, hai detto? Sì. Magari ci dobbiamo procurare qualcosa di più pesante per il resto di questa tappa se continua così. Continuiamo. Addio. Ciao. Chi abbiamo trovato sul bordo strada di questa tappa? Allora, io sono Rasa Mazikite, che correvo sempre con la nazionale lituana, correvo in pista, sono un bronzo mondiale, campionessa europea, ho vinto la Coppa del Mondo. E adesso abiti a? Camaiore. Dove hai aperto un bar che si chiama Mangia e Bevi. Sì, perché a me piaceva molto l'idea, più che altro incontro dei ciclisti, le chiacchiere e passatempo. Quanta gente si ferma oggi che passa il Giro d'Italia? Oh, dicevo un mondo, il mondo tutti qui, veramente bellissimo. Comunque ecco, vi posso, se la trovo, abbiamo anche la campionessa del mondo Edita Pučinskaitė, che ha vinto 2 Giro Italia femminile, un tour femminile, Tour de France. È in bagno. Allora ci le porti i saluti di Bidon e di Alvin. Volentieri. Grazie a voi, buon giro a voi. Ciao. Fare i propri bisogni è un elemento della corsa, sia in gara che fuori. Sì, l'abbiamo sperimentato anche oggi. Correre è un elemento anche per chi non corre, per cui capita alle volte che se uno ha fare i suoi bisogni bisogna scappare via e non si riesce a incrociarsi, ma almeno a lanciare i propri saluti. Volevo aggiungere che sulla via del ritorno, visto che Leonardo hai citato il brano di Vinicio Capossela, sì. Sulla via del ritorno invece siamo passati al bivio per i Colli di Pedona, e questa cosa mi ha molto entusiasmato perché Colli di Pedona è il titolo di un disco dei Land of Nod, e secondo me è il più bel disco che sia mai stato fatto sul ciclismo. Per cui così, lo consiglio, c'è un brano che si intitola Il Giro, che è pazzesco, e... E poi volevo aggiungere anche che Euger Zupacci ha mandato effettivamente un video di suo figlio con i fumogeni in mano, per cui è successa davvero questa cosa alla festa, e ringraziamo e salutiamo Euger. Che ricordiamo è stato qualche giro fa con noi, insieme a noi, ma lui è stato l'autore di questo, di questa specie di diario ogni giorno, si chiamava Zupa del giorno, e l'abbiamo poi condiviso sui nostri canali, è tutto ancora disponibile se volete andarvi a rileggere quello che Euger Zupa ha raccontato in quel suo giro d'Italia di 3-4 anni fa. Sì, era il 2019 se non sbaglio quel giro, e niente, ringraziamo nuovamente Euger perché è una persona, è stato uno dei begli incontri che abbiamo fatto nella nostra breve avventura ciclistica. Altri incontri li facciamo quotidianamente, alcuni ve li facciamo ascoltare con le interviste coi corridori, altri li facciamo tutti i giorni in albergo, fuori dall'albergo o in automobile, ovunque capiti, con i nostri compagni di strada della squadra del servizio corse di Shimano, dell'assistenza tecnica neutrale. E oggi vi facciamo conoscere un altro dei personaggi che compongono questa squadra, non uno qualsiasi, il sindaco, che ci parla, ci proietta già al futuro e anche la tappa di domani. Uno è Trino, Massimo Subrero, perché sei parte della squadra tecnica Shimano, sì, con l'incarico, qual è il tuo ruolo qui? Driver. Guidatore. Guidatore. In quale auto? Uno, due o tre? Uno. Uno, quindi che sei... poi ci alterniamo nella posizione in gruppo, okay. Però la mia macchina, ho cominciato il giro, macchina 1, Subrero Sbrolli, meccanico Sbrolli. Poi sei, fai il direttore sportivo tu. Passando gli anni, in questi ultimi anni, non ricopro più esclusivamente la parte di direttore sportivo, ma un po' di, chiamiamo, manager di una squadra di dilettanti, quindi la parte organizzativa. Diciamo pure che squadra è. La Overall Tre Colli Cycling Team, dilettanti, under ed elite. Ho l'orgoglio di dire che sono 36 anni che siamo tra le più longeve. E poi in aggiunta a tutto questo, non so dove trovi il tempo, sei anche il sindaco di... Sono da 4 anni il sindaco di Pasturana, che è un comunello sulle colline novesi, verso il Gaviese, dove passerà una tappa del giro, di 1300 abitanti. E allora, proprio di questa tappa, la tappa numero 11, noi ti chiediamo di presentarci i territori che verranno attraversati. Dici tu da dove vuoi. Camaiore era un punto di riferimento per tanti anni, abbiamo fatto i ritiri invernali. La tappa partirà di lì e troverà il primo zampelletto al Passo del Bracco, per arrivare poi giù alla Scofera, Busalla, e da di lì si entra in territorio piemontese con il Passo della Castagnola. Discesa veloce, si arriva a Voltaggio, dove c'è un'importante pinacoteca, e lì la strada scende tutta per arrivare a Gavi, dove domina la fortezza di Gavi, e la vedremo proprio, ci picchieremo contro con... Speriamo di no. No, ecco, però pian piano si avvicinerà, e lì c'è il territorio del Gavi Doc, con il Gavi di Gavi, che è una zona ristretta, che però la tappa non toccherà precisamente. La tappa toccherà il Gavi, che è la città che dà il nome a questo vino bianco molto, molto conosciuto. Deviazione verso Serravalle Scrivia, e da di lì in pratica non ci sono più di saliscendi, è tutto un veloce avvicinamento a Tortona, toccando punti importanti ciclisticamente parlando, perché toccheremo Cassano Spinola, dove c'è la Stele di Girardengo e dove c'è la casa natale di Carrea, passeremo proprio davanti. Poi proseguendo troveremo Villa Alvernia, e lì un lungo rettilineo che ci porta a Tortona, altra zona di vini, e lì il vino non è più il Gavi ma è il Timorasso. Timorasso, sulla destra ci sono le colline care a Coppi, Castellania, che però non toccheremo perché staremo nella parte bassa, e si arriverà poi in Tortona. Grazie mille. Prego. Grandissimo Massimo, il sindaco, col quale ho condiviso la macchina, la tappa di Napoli, e mi ha fatto passare il quarto d'ora più adrenalinico della mia, peraltro, abbastanza noiosa vita. Noiosa e breve anche. E breve, sì. Dal valico di Chiunzi, qui mi ha attaccato con la sua guida spericolata al sedile, ma domani c'è una tappa lunga ancora, Leo. La chiedi a me, era il tuo momento, dovevi introdurre tu la tappa di domani e chiedi a me. No, sì, è lunga perché leggo essere ben 219 chilometri, però dovrebbe essere il tuo momento, quindi assumiti le tue responsabilità. Sì, domani è una tappa lunga, ma che potrebbe avere più metri di dislivello, essere più dura, invece per vari motivi l'organizzazione non ha fatto delle grandi... Ma che presentazione, no, non lo so. Io... Filippo, io vorrei una sarebbe tappa... potuta passare sulle Dolomiti la tappa di domani, ma invece va in Piemonte. Collegare Camaiore, dove parte la tappa di domani, a Tortona, lo si poteva fare in modo un po' più frizzantino. Ma va bene, vabbè, così, questo... va bene così. Questo commento personale. Vabbè, allora, vabbè. Le salite che fanno, ve l'ha già dette il sindaco, io vi posso vabbè, dire. Vabbè, non che... hai voglia di parlare della tappa di domani, facevi prima a dirla così. No, no, no, vi posso dire che ho fatto per esempio la Castagnola di recente, la pedalata, è una salita molto facile. Io e Stefano Francescutti di Alventro abbiamo fatta quasi tutta col 50 davanti, per cui i corridori se la sbafferanno. Secondo me arriverà la fuga, scusami, arriverà la volata sul traguardo di Tortona e secondo me vincerà, così passo subito al pronostico, Mark Cavendish. Ah, interessante il pronostico, è vero che è in crescita, abbiamo detto prima. Invece, Filippo, pronostico? No, io speravo che tu, Leonardo, facessi la tua polemica di questo Giro d'Italia. No, polemica. Come no, su questa tappa ce l'hai. Perché ce l'ho? Ah, ecco, grazie, grazie. Sì, l'avevo fatta in automobile, l'avevo dimenticato. Perché questo Giro d'Italia ha piazzato un arrivo a Ortona, un arrivo a Tortona, e si sono dimenticati di Cortona per fare un filotto che sarebbe stato storico. Imperdonabile. E anche oggi hanno fatto la partita a Scandiano, città magnifica, bellissima, ricca di storie, come vi abbiamo detto, ma hanno perso l'occasione di fare la Reggio via Reggio, che comunque è vero. Era un'altra ottima possibilità. Ma torniamo alla tappa di domani. Allora, secondo me arriva la fuga, per il motivo che l'ho già detto l'altra volta e poi non è arrivata, per cui non si capisce quanto ci prendo. Oggi si sono frullati sotto l'acqua tirando e domani ci sarà voglia magari un po' di tirare il fiato. Però non mi stupirei se arrivassero in volata, per cui faccio il doppio prono, faccio come Pelacci. Arriva la fuga, ma arriva anche la volata. È facile così. E la volata la vince colui che già vinse a Tortona facendo, secondo me, il suo capolavoro in volata, che è Fernando Gaviria. Ah, curioso, curioso. Io, vabbè, sulla tappa di domani, se girate l'altimetria della tappa di domani e leggete attentamente, c'è scritto Mads Pedersen proprio sul retro della tappa di domani. Non avete fatto questo? Devo capire adesso. Pelacci, mi tieni il microfono? Cioè, devo girarla all'ingiù o specchiarla? A 180 gradi, al dietro. Al dietro, ok. Al dietro, okay, per cui bisogna farla su un foglio trasparente. Se avessimo una minima di nozioni di... non è che come si chiama quella disciplina della geometria, sapremmo dire il tipo di riflessione, ma non abbiamo queste nozioni, no, per non cui... abbiamo nessuna nozione utile. Ma sai, a proposito, sì. Scusa Leo, poi andiamo oltre. Di arrivi a Tortona, chi vinse qui membro della carovana del Giro d'Italia in senso largo nel 96? Fabiano Luperini vinse a Tortona. Però se fai una domanda poi devi dare il tempo agli altri di dare la risposta, se no cioè, non che la sapessi, avrei detto tutt'altro nome, però comunque è vero, Fabiano Luperini, abbiamo sentito la sua voce ieri e l'abbiamo incrociata anche oggi fuori dal bus della Corratec, di cui è direttrice sportiva. Comunque, direi di Leonardo, non mi ricordo. Ah sì, il tuo pronostico l'hai fatto con quella roba lì bizzarra delle simmetrie e tutto. Sì, sì, sì. Direi di stringere i tempi perché a breve si ci cena. Sarà una... No, prima della cena o durante la c'è cena. C'è stato il buffet, cioè... tra l'altro, non l'abbiamo detto, oggi era uno dei migliori. No, gran buffet. Sì, oggi. Sì, decisamente buono. Però direi di accelerare perché tra poco c'è una. Ma invece parliamo ancora un po' del buffet. C'era il prosciutto col tizio che lo tagliava davanti. Era eccezionale quel prosciutto lì. C'è nera del prosciuttificio Pelacci. C'è un altro sport che in questo mese di maggio conosce dei momenti importanti. Finalmente apriamo il capitolo sulla pétanque. Non è quello, è il pallone che stasera conosce la prima semifinale di ritorno di Champions League. E per introdurla, visto che adesso ci mettiamo pure a introdurre il calcio, già non eravamo bravi a introdurre il ciclismo, lo facciamo anche col calcio. Abbiamo pensato una cosa mai fatta prima. È molto rischiosa, molto creativa, visto che oggi è la giornata mondiale della creatività. Abbiamo intervistato un'intervista doppia. Abbiamo fatto un'intervista doppia con due corridori francesi in inglese. In hotel, è un'intervista registrata in hotel, ieri. Dai, non... cioè, sì, tra tutte le cose azzardate, questa è la più la meno strana. Però l'abbiamo fatta sì in inglese a due corridori francesi semi sconosciuti. Voi li conoscerete perché ci seguite e seguite il giro. Uno sì. È Alexandre Delettre e l'altro è Thomas Champion. Sono entrambi corridori della Cofidis. Li abbiamo visti entrambi già protagonisti in fuga in questo Giro d'Italia. Sono compagni di stanza e abbiamo fatto questa breve intervista leggera. Volevamo un po' scherzare con loro ed è venuta fuori questa cosa, non so come definirla. L'ascoltate. Siparietto. Questo siparietto insieme a loro. Lo ascoltiamo e poi ci risentiamo qui per i saluti. Ok, so, name? Alexandre. Thomas. Surname? Delettre. Champion. Nickname? Alex. Champs. Age? 25 years old. You had to think about it. 23. Birthplace? In France, Gonesse. Nantes, in France. How tired are your legs from 0 to 100? For the moment, 50%. 50. Six. Six? 60 or six? 60. 60. Number of wins in your career? Zero. Zero. Number of breakaways in this Giro? Just one. Two for me. And the best place you have seen in the Giro until now? Naples. Campo Imperatore. Best food you had in the Giro? Food, yes, I like pasta. Tiramisu the 5th day, I think. Yeah, okay. And the most important word that you know in Italian? Ciao. Ciao. Consoni say always puttana. That's Consoni's fault. Okay, okay. What do you think if I say you mountains? Hard. Hard too. And a race that you dream to win in your career? I dream in the winning the Giro, in the stage of Giro. More than the Tour de France? More Tour de France, yes. Yes, France, yes, okay. For me, mountain stage. In this Giro? In Giro, but in this, I don't know. Okay. Are you in the room together? Or yeah. Who is choosing like the music in the room? The DJ. Yeah. He is the DJ. Yes. Okay. What's your favorite kind of music? More techno. Techno. Yeah. Okay. Ah oui, la musique italienne, comme dans le stade de Milano. It's the Stadium of Milano. Okay. What is the music? C'est Sara perché ti amo. Mais remix, football remix. Ah, okay, the football remix. What's your favorite football team? I don't like football. You just like that song? Just the song. Just last thing, if you can say a greeting in French to our listeners of the podcast. Merci à tous. Je suis content d'être sur le Giro. Prêt pour me battre pour les deux prochaines semaines. Allez à bloc, on suit le podcast, pardon. Merci beaucoup. Eh sì, molto, molto, molto simpatici questi due corridori. Io da ieri questa immagine in testa del povero Delettre che si deve subire il Sarà perché ti amo nella versione remix della curva del Milan che Champion gli mette a tutto volume in camera. Non so. L'immagine sì, è più assurda di questo giro. Mi spiace anche a me per lui, poverino, perché potrebbe sorbirsi Remco perché ti amo tutto il tempo e invece... O forse hanno ascoltato Remco perché ti amo fino all'altro ieri e poi, esatto, hanno cambiato, hanno messo la versione del Milan. Vabbè, speriamo che almeno porti bene. E... Due squadre di Milano a giocarsi questa semifinale della FU Coppa dei Campioni e io do un appuntamento ai milanesi domani alle 19 in Piazza della Resistenza Partigiana, pedalata silenziosa, si chiama Ride of Silence, è un evento che si svolge in 226 luoghi al mondo per ricordare i ciclisti caduti sulla strada ed è un evento a cui invito tutti invito tutti a partecipare in bicicletta, sperando che ce ne siano sempre meno di questi eventi, non perché non siano importanti, ma perché siano sempre meno necessari. Altrimenti, o in aggiunta, l'appuntamento è con Gironimo a domani, se tutto andrà bene. Speriamo di sì. E adesso vi salutiamo e andiamo alla prossima. Andiamo a cena, andiamo a vedere la partita, andiamo a bere una birra e poi ci vediamo domani. Ciao!